Soundcheck. Microphone check. Il suono della musica. DJ Jet Telesforo. Se si sente un po' di musica in sottofondo è perché in questa bellissima casa che si trova più o meno vicino a Ascona in Svizzera, dove mi trovo in questo momento, razzolano musicisti di tutti i tipi, perché sono a casa del mio amico Nicolas Gillier, ovvero il direttore artistico da più di 10 anni del Jazz Festival di Ascona, che con il tempo è diventato uno dei jazz festival più importanti non solo in Svizzera ma in Europa, con una particolarità: che il Festival Jazz di Ascona è gemellato direttamente con quello Jazz and New Heritage della città di New Orleans. Perché, caro Nicolas, intanto benvenuto, buongiorno, buon pomeriggio anche a te. Siamo in onda su Radio 24 per il nostro soundcheck, quindi intanto un saluto. Beh, buongiorno, benvenuto a te Gigi, mi fa tantissimo piacere accoglierti qui a casa mia. E mi sento un po' a casa mia perché è una casa piena di dischi, piena di CD, di album, di vinile, piena di strumenti con i tuoi amici che stanno suonando. Questo che sentite in sottofondo non è un disco, ma sono proprio i nostri colleghi che si stanno divertendo. È questa la mia idea di casa, una casa aperta per i musicisti che vengono, passano e si divertono, fanno musica, ascoltano musica, ed è così che vive proprio questo prodotto musicale, il jazz. Nicolas è un musicista ma anche un imprenditore che ha pensato bene di coniugare queste sue passioni, ovvero la forza dell'organizzazione e la passione tipica del musicista, e quindi da 10 anni, con grandissimi sforzi, conduci come direttore artistico il Jazz Festival di Ascona. Diciamo, a questa particolarità perché vuole riproporre un po' l'atmosfera e il suono tipico di New Orleans. Come mai questa scelta artistica? Ma io ho ripreso 10 anni fa un festival che già esisteva, ed era un festival già allora legato a New Orleans, però New Orleans come forma tradizionale di jazz. E negli anni io ho aperto stilisticamente e ho voluto proprio non prendere lo stile New Orleans ma l'ambiente che c'è a New Orleans. L'ambiente di New Orleans è quello di trovare in diverse stradine musica che varia dal Dixieland fino al bebop, fino a altri stili come R&B, c'è veramente di tutto, e l'approccio mi sembra molto diverso da quello che trovi in tutto il resto del mondo. È uno spirito quasi un po' più libero, un po' più si vive la musica in un modo diverso, c'è un ambiente direi laid back, che tu mi aiuterai a spiegare perché non ho ancora trovato. Beh, diciamo che c'è un ambiente rilassato, ecco. Sì, ecco. Quindi a me piace questo modo di vivere la musica e voglio riproporlo e farlo conoscere qui in Europa. Allora, cerchiamo di capire bene come funziona il Jazz Festival di Ascona e ne parliamo subito dopo aver ascoltato un po' di musica. E vorrei proporti, caro Nicolas, la nostra amata Diana Krall con il suo trio strepitoso in un classico di Nat King Cole intitolato Straighten Up and Fly Right, e poi torniamo qui al soundcheck di Radio 24. Straighten up and fly right, put down, Baba, don't you blow your top. Straighten Up and Fly Right, il sound, la voce, il pianoforte di Diana Krall a chiudere la prima parte del soundcheck di Radio 24. Lo ripeto, ci troviamo vicino a Ascona in Svizzera per farci raccontare dal direttore artistico del Jazz Festival di Ascona, Nicolas Gillier, come funziona l'organizzazione di un festival così carino, così importante e così piacevole da vivere d'estate, perché arriverà a giugno. Intanto facciamo una breve pausa, torniamo qui su Radio 24. Soundcheck. Check, check, one, two. Il suono della musica. Soundcheck. Il suono della musica. Give me the joy of summer wine. These are the days that bring new meaning. I feel the stillness of the sun. And I feel fine. E qui a casa di Nicolas Gillier, direttore artistico del Jazz Festival di Ascona, i suoi amici musicisti stanno continuando a suonare e noi invece continuiamo la nostra organizzazione qui per il soundcheck di Radio 24. Si parlava di festival, avete appena finito di ascoltare il sound tipico di questo ragazzo talentuoso inglese Jamie Callum in una sua composizione dal titolo These Are The Days. Jamie Callum negli ultimi anni è diventato famosissimo senz'altro, ma soprattutto per la casa discografica che lo produce un best seller, cioè in pochissimo tempo, in pochi anni di carriera Jamie Callum è diventato un best seller per il jazz in Inghilterra. L'hai mai avuto Jamie Callum al Festival Jazz di Ascona? No, però rimane sicuramente un progetto che vorrei realizzare il prima possibile, il più presto possibile. Nicolas, vorrei raccontare ai nostri amici in contatto su Radio 24 quali sono le difficoltà, come funziona l'organizzazione di un festival come il tuo. Il tuo festival si svolgerà a giugno, in che periodo quest'anno? Allora, sarà a partire dal 20 di giugno per 10 giorni. È un festival bellissimo perché propongo 200 concerti in questi 10 giorni, quindi ce n'è dal mattino fino alla notte inoltrata con jam session. Ecco, voglio raccontare che il festival si tiene tutto sul Lungolago, che è bellissimo, con tutti i ristoranti, i bar a disposizione degli appassionati di musica, e quindi si vive dal pomeriggio, perché il tutto parte verso le 5 e le 6 di pomeriggio fino a notte inoltrata. Esatto, e tanta musica, tanta varietà, un pubblico diversificato perché va dal giovanissimo fino a persone di una certa età, quindi c'è veramente di tutto. Bisogna immaginarsi che Ascona è una città, è un paese quasi direi, di un paio di migliaia di abitanti, e si riempie, abbiamo un pubblico 80.000 persone in 10 giorni, quindi è una forza d'attrattiva notevole per l'appassionato, ma anche per il curioso e chi si vuole lasciare appassionare dal jazz. Organizzare un festival è difficile, è una cosa complessa, infatti l'abbiamo detto, il festival ci sarà a fine giugno, però tu stai già lavorando, sei appena tornato da New Orleans proprio per prendere i contatti con i musicisti, management, cercando di portare alcune novità e anche dei veterani ancora in attività. Qual è la difficoltà maggiore per un direttore artistico e organizzatore di festival? Allora, per un direttore artistico appassionato di jazz come lo sono io, il problema è che non mi fermerei mai nell'organizzazione e farei di più di quanto posso. Difficoltà trovare soldi, purtroppo è una realtà... Scusami, anche da voi in Svizzera? Sì, si combatte tutti gli anni. Allora, tutto il mondo è paese, ma siete pieni di banche qui? Bisogna convincere le banche a partecipare. Ma questo perché è un problema legato al jazz, alla musica, alla cultura o a cosa? Magari anche un pochettino, riusciamo a convincerli, perché è il prodotto che noi vendiamo i 200 concerti più che vendere il personaggio singolo. Abbiamo talmente tante star qui ad Ascona che alla fine è l'ambiente che conta, e convincendo con l'ambiente noi arriviamo a portare veramente un largo pubblico. Allora, intanto vi consigliamo di trascorrere qualche giorno di vacanza ad Ascona, magari pure non essendo appassionati di jazz, ma senz'altro di musica, perché si ascolta di tutto. Nel frattempo noi facciamo ascolto di musica e vorrei proporti questa versione di un classico di George Gershwin intitolato Summertime, ma nella versione di questo pianista inglese, anche lui si chiama Jason Ribello, che adesso per anni, da anni, suona nella band di Sting, in questa versione molto carina, fatta nei primi anni 90 in periodo easy jazz, con la voce meravigliosa di Maisa Leak, che era la vocalist originale degli Incognito. Jason Ribello al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Ma posso restare a casa tua per una settimana? Sto troppo bene qui. No, sul serio, i dischi, gli strumenti, i musicisti che suonano a tutte le ore, Nicolas, è il posto ideale per me. Sei il benvenuto, ma devi chiedere a mia moglie. Lo chiederò a tua moglie, senz'altro, e le parlerò in portoghese perché un po' riesco a parlarlo. Siamo sempre qui a casa di Nicolas Gillier, direttore artistico del Jazz Festival di Ascona, e ormai siamo quasi in chiusura, ma vorrei chiederti, da organizzatore di festival, qual è uno degli aspetti più complicati per l'organizzazione? Va bene, la direzione artistica, scegliere i musicisti, i compensi, trovare i soldi, ma poi quando si è in loco con i musicisti, qual è la cosa più complessa? Capire prima di tutto che non sono io che sono sul palco a suonare, ma sono loro che fanno la differenza. Io ho organizzato e sono loro a fare la differenza, però per renderli poi contenti c'è tanto altro. C'è gli strumenti buoni, il sound check, il suono, e quello è ok. Il soggiorno, come vengono trattati, come mangiano, cosa mangiano. Ecco, è qui che mi volevo fermare, perché gli amici devono sapere che la cosa più difficile è organizzare i pasti per i musicisti, perché ci sono i vegetariani, i vegani integralisti, ci sono i celiaci, ci sono quelli che non mangiano pasta, quelli che non mangiano pane, quelli che mangiano certi tipi di carne e via dicendo, e tutti hanno delle esigenze, inviano i rider con tutte queste richieste. Allora tu che cosa fai? Io tento di prendermi cura di ogni musicista, però devo dire un piccolo aneddoto di un batterista, Alvin Queen, che mi ha insegnato che ovunque tu vada come musicista, la prima cosa da fare è diventare amico del cuoco che cucina per te. Ed è vero, è una cosa che tutti i musicisti dovrebbero imparare. È così, se vogliono star bene, ecco, è quello il segreto. Allora lo consigliamo ai musicisti: non andate dal direttore artistico, andate direttamente dallo chef. Esattamente, bravo. Ecco, ma quando ti si presenta un musicista come Joey Di Francesco, organista sublime, ma anche uomo di dimensioni abominevoli, peserà quanto? 140 kg. Che cosa mangia Joey Di Francesco? L'hai avuto al festival? Mangia tantissimo, però è una buona forchetta. Devo dire che sceglie con cura quello che vuol mangiare. Io in generale, con ormai 300 musicisti al mio festival, non posso curare ognuno nel dettaglio cosa mangia, però quando so che ci sono delle situazioni particolari, dei personaggi che hanno bisogno di un attimo più d'attenzione, gliela do più che volentieri. E loro ricambiano suonando alla grande, e infatti qui Joey Di Francesco in un super blusacchione intitolato Jamming in the Basement, uno shuffle di quelli che ci fanno impazzire. Thank you. E siamo ai saluti, termina qui l'appuntamento con il soundcheck, la prova del suono di Radio 24. Io invece mi trattengo ancora un po' qui a casa tua, poi riparto per concerti e altri lidi, per poi ritornare qui a fare radio per Radio 24. Nicolas Gillier, è stato un piacere incontrarti, in bocca al lupo per l'organizzazione del prossimo Jazz Festival di Ascona. È importante perché sarà quale edizione? Sarà la 30ª, e un appuntamento da non perdere, perché spazieremo ancora di più negli vari stili e con tantissimi bravi artisti, e perché no, spero di strappare una promessa ancora dopo, quando mangeremo qualcosa al tavolo a casa mia. Io te la faccio subito, allora faccio una cosa, per salutarti ti faccio ascoltare un brano retro che ho scritto poco tempo fa, e ispirato in qualche modo anche al suono del tuo festival, al Festival Jazz di Ascona. Grazie a tutti voi, termina il soundcheck di Radio 24 e buona giornata a tutti da Gigi Telesforo. You know what I want, cause I don't really know. Yes, I know that you know what I want, when I want, if I want you to. I don't know what you want, cause I don't really know. And you know that I know what you want, when you want and you say, baby, I love you too. Soundcheck, il suono della musica.